America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. A major global risk. Research showing a Donald Trump presidency would be as big of a world threat as jihadi terrorism. Beh, un colpo, uno potrebbe dire durissimo, se lo vede da un certo punto di vista, contro Donald Trump è arrivato dall'Economist. L'Economist ha fatto una classifica dei personaggi più pericolosi per l'economia mondiale, per la stabilità mondiale, e Trump è entrato nel top 10. Secondo l'Economist, un personaggio come Trump porterebbe uno shock per l'economia mondiale. La cosa che mi ha colpito è che in questa scala di pericolosità, diciamo, il voto che prende Trump è 12, come la Jihad. E anche se un atterraggio duro dell'economia cinese, per esempio, fa peggio, perché a 20. Nella top 10 ci sono poi gli interventi russi in Ucraina e in Siria, l'Europa che è patria di due rischi legata alle disintegrazioni dell'Unione, a Brexit, a Grexit, eccetera, eccetera. Però è il rischio Trump che in qualche modo prevale. Ecco, io mi domando se non ci si rende conto che un magazine come l'Economist, rappresentativo in assoluto direi dell'establishment, può soltanto aiutare Trump a far meglio. Dunque, se la vogliamo tenere così, diciamo, sulla leggerezza, l'Economist che attacca Trump, ma Trump magari viene avvantaggiato, abbiamo, come dire, degli elementi divertenti su cui chiacchierare. Però c'è un argomento molto serio invece e che preoccupa molto, di cui si parla in America dal punto di vista anche più tecnico, che è l'ostilità di Donald Trump contro il libero commercio. Certo, c'è anche Bernie Sanders che è contro il libero commercio, stesso messaggio identico a quello di Trump: il libero commercio ci danneggia, chiudiamo tutto, punto e basta. Per Bernie Sanders c'è invece il protezionismo dei posti di lavoro americani, viva il sindacato, basta impianti all'estero e basta naturalmente aperture commerciali. Insomma, devo dire intanto che quando gli estremi si toccano, secondo me abbiamo una certezza, e cioè che le loro tesi non stanno in piedi. Ma che le tesi siano prive di fondamento economico o addirittura antistoriche, perché vogliono frenare la globalizzazione, come dicono gli slogan gemelli di Trump e Sanders, beh, è irrilevante. L'importante è che portino voti. Dunque, così come la copertina dell'Economist aiuta Donald Trump, e ovviamente Donald Trump si è accorto che c'è un nervo esposto nell'opinione pubblica americana dal punto di vista della fragilità, della vulnerabilità commerciale, perché si perdono posti di lavoro, perché c'è questa percezione dell'intrusione straniera e così via, così via. Perché questo è importante, ci riguarda? Perché è sotto attacco il TPP, cioè l'accordo per la creazione di un'area di libero scambio nel Pacifico, però il passo è breve per attaccare anche la creazione dell'area di libero scambio nell'Atlantico, il celeberrimo TTIP, il Transatlantic Trade and Investment Partnership, di cui abbiamo molto parlato, che è ancora in fase negoziale. Ecco, sono preoccupato? Beh, devo dire, io lo sono, non tanto per Sanders, che non ha chance per battere Hillary Clinton nella corsa verso la nomination, ma per Trump, intanto perché più è sotto attacco, come vi dicevo, e più si rafforza, e poi perché ci sono alcuni fatti, non voglio entrare qui in elementi troppo tecnici, però sappiamo che nel 1929 abbiamo avuto la Grande Depressione, perché la prima cosa che è stata fatta è stata quella di chiudere le frontiere, oltre a evitare interventi monetari per aiutare le banche. Però l'apertura prevale sulla chiusura, di questo credo dobbiamo prenderne atto, anche se può sembrare, come si dice qui, counterintuitive, anche se può sembrare il contrario. E dunque torna a dire che l'apertura è meglio della chiusura, soprattutto in tempo di pace, in una fase storica in cui la globalizzazione sta cambiando le dinamiche concorrenziali. Poi qualcuno può essere meno d'accordo, più d'accordo, però il cambiamento c'è. In genere questi cambiamenti poi hanno portato progressi, e dunque vogliamo andare alla radice, come dice Trump, e fermare la globalizzazione, arrivare a tagliare la radice proprio. E io vi dico, questo sarebbe un po' come fermare le onde del mare con le nostre braccia, però quando uno è convinto di poterlo fare, devo dire, non c'è ragionamento logico che possa convincere del contrario. Bene, vi do un'anteprima, perché insomma ci stiamo trasferendo a Cuba per l'arrivo di Barack Obama, una visita storica in tutti i sensi, la chiusura di un'epoca, la visita di un presidente americano, la prima in 80 anni, pensate, era stato il presidente Coolidge, l'ultimo a recarsi a Cuba, ma perché si cercherà di cambiare qualcosa? Chissà che l'arrivo del presidente non possa scardinare qualche cosa a Cuba e finalmente portare la democrazia in modo naturale. C'è molta attesa per questo viaggio e soprattutto c'è la Casa Bianca che batte un colpo. La Casa Bianca c'è, come ha dimostrato con la nomina del giudice per la Corte Suprema. È stata una dimostrazione di grande dignità e di grande presenza. Lo sarà ancora di più a Cuba. Il presidente degli Stati Uniti è ancora alla Casa Bianca, continua a fare il suo lavoro e questo rapporto in particolare con Cuba genererà degli attacchi furiosi fra i repubblicani che invece erano contrari ad aprire su Cuba. Però Obama vuole voltare pagina, vuole guardare in avanti, vuole chiedere l'eliminazione delle sanzioni commerciali perché alla fine, diciamocelo, è la normalizzazione, è l'apertura di una porta, è l'inclusione che porta il cambiamento. Sbattere una porta in faccia aiuta solo la radicalizzazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vi fa più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, una notizia, il 25 i Rolling Stones saranno a Cuba, subito dopo il presidente americano. Chissà che questo 1-2 non dia un ulteriore scossone a quest'isola che è rimasta troppo chiusa per troppi decenni. E dunque dedichiamo a Cuba, dedichiamo a Obama, dedichiamo ai Rolling Stones la canzone del giorno contro coloro che resistono, perché insomma la simpatia di Obama per Cuba, che i repubblicani vedono ancora come il diavolo, beh, dobbiamo riconoscere, ha rappresentato comunque una svolta storica. Dunque dei Rolling Stones, Sympathy for the Devil, simpatia, parentesi di Obama, per il diavolo. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.